Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. L'indomani del giorno in cui ebbe luogo il dialogo che abbiamo riferito tra Andrea e Caderousse, il Conte di Montecristo partì per Auteuil con Ali e con alcuni cavalli che voleva provare. Al suo arrivo, Bertuccio gli consegnò una lettera. Il Conte l'aprì e lesse. Il signor Conte di Montecristo è avvisato che questa notte un uomo si introdurrà nella sua casa degli Champs-Élysées per sottrarre delle carte che egli crede chiuse nell'armadio dello spogliatoio. Il signor Conte di Montecristo è un uomo abbastanza coraggioso per non ricorrere all'intervento della polizia, intervento che potrebbe compromettere seriamente chi scrive. Il signor Conte, sia da un'apertura della vicina camera da letto, sia nascondendosi nello spogliatoio, potrà farsi giustizia da sé. Molte persone, molte precauzioni allontanerebbero certamente il malfattore e il signore di Montecristo perderebbe l'occasione di conoscere un nemico che il caso ha fatto scoprire alla persona che scrive questa missiva. Missiva che non avrebbe forse più il modo di rinnovare se, fallendo questa prima impresa, il malfattore ne tentasse un'altra. Il conte chiamò Baptistin. «Ritornate a Parigi», gli disse. «E conducete qui tutta la servitù che è rimasta là. Ho bisogno che tutti siano qui ad Auteuil». Il conte fece sapere che avrebbe pranzato nella sua camera e che voleva essere servito soltanto da Ali. Pranzò con tranquillità e con la sobrietà abituale. E dopo il pranzo, facendo segno ad Ali di seguirlo, uscì dalla porticina, raggiunse il Bois de Boulogne, come per passeggiarvi, e presa come per caso la strada per Parigi, al cadere della notte si trovò nel suo palazzo degli Champs-Élysées. Suonarono le 11:15. Il vento di ponente portava con il suo umido soffio la lugubre vibrazione dei tre tocchi. Era appena cessato l'ultimo, quando il conte credette di sentire un rumore leggero dalla parte dello spogliatoio. Quel primo rumore, o piuttosto quel primo scricchiolio, fu seguito da un secondo, poi da un terzo. Al quarto, il conte sapeva già di che cosa si trattava. Una mano ferma ed esercitata era intenta a tagliare con un diamante i quattro lati di un vetro. Dall'apertura praticata si introdusse un braccio che cercava il catenaccio. Dopo un istante, la finestra girò sui cardini ed entrò un uomo. Era solo. «Ecco un furfante audace», mormorò il conte. In quel momento sentì Ali toccargli leggermente la spalla. Si voltò e Ali gli indicò la finestra della camera dove erano loro e che dava sulla strada. Montecristo fece tre passi verso quella finestra. Conosceva l'acutezza dei sensi del suo fedele servitore. Infatti, vide un altro uomo che si distaccava da una porta e, salendo sopra un palo, sembrava cercasse di vedere ciò che accadeva in casa del conte. «Bene», disse, «sono in due. L'uno agisce, l'altro sta di guardia». Fece segno ad Ali di non perdere di vista l'uomo della strada e ritornò a quello dello spogliatoio. Il tagliatore di vetri era entrato e si orientava con le braccia tese in avanti. Finalmente parve essersi reso conto di ogni cosa. Vi erano due porte nella stanza ed egli mise il catenaccio ad entrambe. Solo e libero in tutti i suoi movimenti, l'uomo tolse allora dalla sua larga tasca un oggetto che il conte non poté distinguere. Lo posò sopra un tavolino. Quindi andò direttamente all'armadio, cercò la serratura e si accorse che, contro la sua aspettativa, mancava la chiave. Ma il tagliatore di vetri, da uomo avveduto, aveva previsto tutto. Il conte udì ben presto quel rumore del ferro contro il ferro che viene prodotto da quel mazzo di chiavi di cui si servono i fabbri e che i ladri chiamano usignoli, senza dubbio per il piacere che essi provano nel sentire il loro canto notturno quando stridono sul perno della serratura. «Ah», mormorò Montecristo con un sorriso di disappunto, «non è che un ladro». Ma l'uomo, nell'oscurità, non poteva scegliere lo strumento adatto. Allora ricorse a quell'oggetto che aveva posato sul tavolino, premette una molla e subito una luce pallida ma abbastanza viva per vedere gettò un riflesso dorato sulle sue mani e sul suo viso. «Guarda», disse ad un tratto Montecristo, arretrando con un moto di sorpresa. «E Ali alzò la sua ascia. Non ti muovere, gli disse Montecristo a bassa voce. Metti giù l'ascia. Non abbiamo più bisogno di armi. Montecristo si tolse rapidamente la giacca, scoprendo una di quelle flessibili tuniche in maglia d'acciaio. Quella tunica fu coperta da una lunga sopravveste nera, i capelli da una parrucca da prete, e il cappello finì di trasformare il conte in un abate. La porta girò così dolcemente che il ladro non ne udì il rumore, ma con sua grande sorpresa vide ad un tratto la stanza illuminarsi e si voltò. «Buonasera, caro signor Caderousse», disse Montecristo. «Che diavolo venite a fare qui a quest'ora?» «L'abate Busoni!» gridò Caderousse e rimase immobile come paralizzato dallo stupore. Il conte andò a mettersi fra Caderousse e la finestra, impedendo in tal modo al ladro spaventato l'unica via di fuga. «Volevate derubare il conte di Montecristo?» continuò il finto abate. «Signor abate!» mormorò Caderousse cercando di guadagnare la finestra sbarrata senza pietà dal conte. «Signor abate, non so... Vi prego di credere, vi giuro!» «Orsù!» disse il conte. «Vedo che siete sempre lo stesso, signor assassino. Avete dunque scontato la vostra condanna?» «No, no, signor abate, no. Io sono stato liberato da una persona.» «Chi vi liberò?» «Un inglese.» «Come si chiamava?» «Lord Wilmore.» «Questo inglese dunque vi proteggeva?» «No, non proteggeva me, ma un giovane corso, mio compagno di catena.» «Come si chiamava questo giovane corso?» «Si chiamava Benedetto.» «E che cosa è avvenuto di Benedetto?» «Ah, no, non ne so niente io! Voi mentite!» disse l'abate Busoni. «Quest'uomo è ancora vostro amico e voi vi servite di lui come complice!» «Oh, signor abate! Da che avete lasciato Tolone? Come avete vissuto? Rispondete!» «Ma... così... come ho potuto!» «Voi mentite! Voi avete vissuto!» disse Montecristo. «Con il danaro che egli vi passava!» «Ebbene, è vero!» disse Caderousse. «Benedetto è diventato figlio di un grande signore.» «E come si chiama questo gran signore?» «Il conte di Montecristo, lo stesso che abita qui.» «Benedetto, figlio del conte?» riprese Montecristo meravigliato a sua volta. «Diamine, bisogna ben credere così, poiché il conte gli ha trovato un falso padre. Gli passa 4.000 franchi al mese e gli lascia 500.000 franchi nel suo testamento.» «Ah!» esclamò il falso abate, che cominciava a comprendere. «E che nome porta intanto quel giovane?» «Si chiama Andrea Cavalcanti.» «Allora è il giovane che il mio amico, il conte di Montecristo, riceve in casa sua e che sta per sposare la figlia del banchiere Danglars.» «Precisamente.» «E voi tollerate questa cosa, miserabile? Voi che conoscete la sua vita e le sue malefatte?» «Io dirò tutto.» «A chi?» «Al signor Danglars.» «Mille fulmini!» gridò Caderousse, estraendo un coltello dal panciotto già aperto e colpendo il conte nel mezzo del petto. «Tu non direi niente! Niente, abate!» Ma con grande sorpresa di Caderousse, il pugnale, invece di penetrare nel petto del conte, rimbalzò, smussato. Nello stesso tempo il conte afferrò con la mano sinistra il polso dell'assassino e lo torse con tal forza che il coltello gli cadde di mano e Caderousse mandò un grido di dolore. Il conte, senza fermarsi a quel grido, continuò a torcere il polso del bandito fino a che, con il braccio slogato, egli dapprima cadde in ginocchio, quindi con la faccia contro terra. Il conte gli appoggiò un piede sulla testa e disse: «Non so chi mi trattenga dallo schiacciarti il cranio, scellerato!» «Ah, grazia, grazia!» gridò Caderousse. Il conte ritirò il piede. «Alzati!» disse. Caderousse si rialzò. «Prendi questa penna e questo foglio e scrivi ciò che ti ho detto.» «No, no, no, io non so scrivere, signor abate! Tu menti! Prendi questa penna e scrivi!» Caderousse, soggiogato, si sedette e scrisse: «Signore, l'uomo che ricevete in casa vostra e al quale destinate vostra figlia è un ex forzato, fuggito con me dal bagno di Tolone. Egli portava il numero 59 ed io il 58. Si chiama Benedetto. Non sa nemmeno il suo cognome, non avendo mai conosciuto i suoi genitori.» L'abate prese il biglietto. «Ora sta bene», disse. «Vattene.» «Da dove? Da dove sei venuto?» Caderousse scavalcò la finestra e cominciò a scendere dalla scala che aveva lì appoggiato. Montecristo rientrò nella sua camera da letto e, gettando uno sguardo in giardino, vide Caderousse spostare la sua scala all'estremità del muro di cinta. Vide anche un uomo appostarsi dietro l'angolo presso il quale Caderousse stava per scendere. Caderousse gridò con voce lamentosa: «Signor abate! Signor abate, soccorso! Soccorso!» «Cosa c'è?» domandò Montecristo. «Aiutatemi!» ripeté Caderousse. «Sono stato assassinato!» «Eccomi! Coraggio!» «Ah, è finita! È finita! Voi giungete troppo tardi! Giungete per vedermi morire! Oh, che colpi! Quanto sangue!» E svenne. Ali e il suo padrone presero il ferito e lo trasportarono in una camera. Quando lo sciagurato riaprì gli occhi, il conte, seduto a pochi passi da lui, lo guardava con una cupa espressione di pietà, e le sue labbra, che si muovevano, sembravano mormorare una preghiera. Un chirurgo, signor abate, un chirurgo!» disse Caderousse. «Ne ho mandato a cercare uno», rispose l'abate. «Ah, so bene che è inutile, che non potrà salvarmi la vita, ma potrà forse ridarmi un po' di forza. Io voglio avere il tempo di fare la mia deposizione.» «Su che?» «Sul mio assassino.» «Lo conoscete dunque?» «Se lo conosco, lo conosco, sì, è Benedetto.» «Volete che scriva la vostra deposizione? Voi la firmerete?» «Sì, sì», disse Caderousse con gli occhi che sfavillavano all'idea di questa vendetta postuma. Montecristo scrisse: «Io muoio assassinato dal corso Benedetto, mio compagno di catena a Tolone, con il numero 59. Caderousse, raccogliendo tutte le forze, firmò e ricadde sul letto dicendo: Voi racconterete il resto, signor abate, e sarà ghigliottinato, me lo promettete? Io muoio con questa speranza Chi sarà il mio conforto? Dirò, disse il conte, che vi ha seguito, che vi ha spiato per tutto il tempo che siete rimasto qui e che quando vi ha visto uscire è corso all'angolo del muro di cinta e si è nascosto. Ah, voi dunque avete visto tutto ciò, E non mi avete avvertito? Gridò Caderousse cercando di sollevarsi sul gomito. Sapevate che io avrei corso pericolo di essere ucciso uscendo di qui e non mi avete avvertito? No, perché nella mano di Benedetto io vedevo la giustizia di Dio. Avrei creduto di commettere un sacrilegio opponendomi alle intenzioni della provvidenza. La giustizia di Dio! Non me ne parlate, signor abate, perché se vi fosse, come voi sapete meglio di chiunque altro, sarebbero punite persone che non lo sono mai! Caderousse alzò i pugni serrati verso il cielo. Ascolta, disse l'abate stendendo una mano sul ferito come per imporgli la fede. Guarda, che cosa ha fatto per te questo Dio, che non vuoi riconoscere nei tuoi ultimi istanti. Ti aveva dato salute, forza, lavoro sicuro e anche amici, la vita insomma. Quale deve apparire all'uomo che desidera pagare i suoi desideri naturali con la coscienza tranquilla? Invece di essere contento di questi doni del Signore, guarda che cosa ne hai fatto. Ti sei abbandonato all'ozio e all'ubriachezza, e nell'ubriachezza hai tradito uno dei tuoi migliori amici. Ascolta, quando lo hai tradito, Dio ha cominciato non a punirti, ma ad avvertirti. Tu sei caduto nella miseria, hai sofferto la fame, sei passato a invidiare la metà di una vita che avresti potuto occupare nel lavoro, e già pensavi al delitto con il pretesto della necessità. Fu allora che Dio fece per te un miracolo, e tramite le mie mani ti inviò nel pieno della tua miseria una fortuna straordinaria per te, disgraziato, che non avevi mai posseduto niente. Ma quella fortuna inattesa, insperata, inaudita, non ti bastò più appena ne sei entrato in possesso. Volesti raddoppiarla. E con quale mezzo? Per mezzo di un omicidio. Tu l'hai raddoppiata. E Dio allora te l'ha tolta, conducendoti davanti all'umana giustizia. No, no, non sono stato io! Disse Caderousse. Non sono stato io che ho voluto uccidere l'ebreo, fu la Carconte! Sì, disse Montecristo. Ma Dio, sempre misericordioso, non dirò giusto questa volta, perché la sua giustizia ti avrebbe dato la morte. Permise che i tuoi giudici si commuovessero alle tue parole e ti lasciassero in vita. Per condannarmi alla galera a vita! Bella grazia! Thank you. tu però, continuò l'abate, considerasti la galera a vita come una vera grazia quando ti fu fatta. Il tuo cuore vile, che tremava davanti alla morte, balzò di gioia all'annuncio della tua perpetua infamia, perché dicesti a te stesso, come tutti i forzati, nel bagno penale vi è una porta, non così nella tomba. E avevi ragione, perché la porta del bagno penale si è aperta per te in modo insperato. Un inglese, che aveva fatto voto di liberare due forzati, capita a Tolone, e la sua scelta cade su di te e sul tuo compagno. Una seconda fortuna scende per te dal cielo, ma allora, miserabile, allora ritorni a tentare Dio una terza volta. Io non ho abbastanza, dicesti, quando invece avevi più di quello che tu abbia mai posseduto e stavi per commettere un terzo delitto senza ragione, senza scusa. Dio si è stancato. Dio ti ha punito. Caderus si indeboliva a vista d'occhio. Io ho sete. Brucio. Gemette Caderus. Montecristo gli dette un bicchiere d'acqua. Scellerato benedetto, disse Caderus restituendo il bicchiere. Lui però sfuggirà al castigo. Nessuno sfuggirà. Sono io che te lo dico, Caderus. Benedetto sarà punito. Allora anche voi sarete punito, disse Caderus, perché non avete fatto il vostro dovere di prete. Voi dovevate impedire a Benedetto di uccidermi. Io, disse il conte con un sorriso che agghiacciò il moribondo, io impedire a Benedetto di ucciderti, dopo che tu avevi smussato il tuo coltello contro la cotta di maglia che mi protegge il petto? Sì, forse, se ti avessi ritrovato umile e pentito, avrei impedito a Benedetto di ucciderti. Ma ti ho ritrovato orgoglioso e sanguinario, e ho lasciato che si compisse la volontà di Dio. Io non credo in Dio, urlò Caderus. No, io non mi pento. Non vi è Dio, non c'è provvidenza, esiste solo il caso. C'è una provvidenza. C'è Dio, disse Montecristo. E la prova è questa, che tu sei qui gemente, disperato, rinnegando Dio, mentre io sono ritto davanti a te, ricco, felice, sano e salvo, giungendo le mani davanti a quel Dio al quale, benché ti sforzi di non credere, credi anche tu, in fondo al cuore. Ma chi siete voi allora? Domandò Caderus, fissando gli occhi moribondi sul conte. Guardami bene, disse Montecristo prendendo il lume e avvicinandoselo al volto. L'abate Busoni! Montecristo si tolse la parrucca che lo rendeva irriconoscibile e lasciò ricadere i bei capelli neri che gli abbellivano il pallido viso. Oh, disse Caderus spaventato. Se non fossero questi capelli neri, direi che voi siete l'inglese. Direi che siete Lord Wilmore. Io non sono né l'abate Busoni né Lord Wilmore, disse Montecristo. Guardami meglio. Guarda più lontano. Cerca nei tuoi primi ricordi. Oh, infatti, disse Caderus, mi sembra di avervi visto, di avervi conosciuto in altri tempi, sì. Sì, Caderus, sì, tu mi hai conosciuto. Sì, tu mi hai visto. Ma chi siete allora? E perché, se mi avete visto, se mi avete conosciuto, perché mi lasciate morire? Perché non c'è nulla che possa salvarti, Caderus. Le tue ferite sono mortali. Se tu avessi potuto essere salvato, avrei intravisto un'ultima misericordia del Signore e, te lo giuro, sulla tomba di mio padre, sarei accorso per restituirti alla vita e al pentimento. Sulla tomba di tuo padre? Ripeté Caderus, rianimato da un'ultima scintilla e sollevandosi per vedere più da vicino l'uomo che aveva fatto questo giuramento sacro a tutti gli uomini. Ma chi sei dunque? Io sono, gli disse all'orecchio, io sono. E le labbra, appena aperte, lasciarono passare un nome pronunciato così sottovoce da far pensare che temesse di sentirlo lui stesso. Caderousse, che si era alzato sulle ginocchia, stese le braccia. Fece uno sforzo per tirarsi indietro, poi giungendo le mani e alzandole con un estremo sforzo... «Oh mio Dio! Mio Dio!» disse. «Chiedo perdono di avervi rinnegato. Voi esistete! Voi siete il padre degli uomini in cielo!» E il loro giudice sulla terra, mio Dio, Signore, vi ho per lungo tempo misconosciuto. Mio Dio, Signore, perdonatemi. Mio Dio, Signore, accettatemi. Caderousse chiuse gli occhi e cadde all'indietro con un ultimo grido e con un ultimo respiro. Il sangue cessò subito di sgorgare dalle larghe ferite. Era morto. «Uno», disse misteriosamente il conte con gli occhi fissi sul cadavere già sfigurato da quella morte terribile.